Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, per chi è appassionato di libri, come immagino tutti voi ascoltatori di questa trasmissione, il libro che adesso vi segnalo è particolarmente importante perché ci porta proprio alle origini del successo del libro, il libro come lo conosciamo, il libro come prodotto anche di un'industria, dell'industria editoriale, un'industria che è nata in Italia, è nata precisamente a Venezia. L'importanza di questa città nel successo dell'oggetto libro viene ricostruito nel libro di Alessandro Marzomagno, L'alba dei libri, quando Venezia ha fatto leggere il mondo. È pubblicato da Garzanti, 212 pagine, 22 euro. Nella prima metà del Cinquecento a Venezia si stampavano metà di tutti i libri pubblicati in Europa. Dal 1469 alla fine del XV secolo, scrive l'autore, 153 tipografi stampano 4500 titoli. Ammettendo una tiratura di 300 copie a titolo, significa che dai torchi veneziani escono 1.350.000 volumi, pari al 15% del totale europeo. Ed è un calcolo prudenziale, quindi capite l'importanza che Venezia ebbe nell'affermare questo prodotto nel mondo che in quel momento era peraltro solo l'Europa. Venezia produce tanti libri e tanti soprattutto bellissimi libri, come dimostra per esempio l'esperienza del re degli stampatori, cioè Aldo Manuzio. Addirittura, nota l'autore, il successo della editoria veneziana plasma e fa conoscere, diffonde, consolida la lingua italiana che viene appunto aggiustata e assume un po' le forme che noi conosciamo nelle tipografie veneziane, proprio nelle edizioni che escono a Venezia. Venezia in quegli anni è un'autentica fiera del libro permanente alla quale accorrono da tutta Europa proprio perché sanno che a Venezia si troverà praticamente di tutto. A un certo punto ci sarà addirittura una crisi da sovrapproduzione, tanti stampatori dovranno rinunciare e salteranno in aria, ma anche questo provocherà un calo dei prezzi. E qui nel libro troviamo la storia di questo periodo meraviglioso al quale dobbiamo anche alcuni dei libri più belli che siano stati pubblicati nella storia dell'editoria. E ne parliamo adesso con l'autore. Buongiorno ad Alessandro Marzomagno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Alessandro Marzomagno, in questo libro lei sottolinea come a Venezia sia stata sempre fiorentissima l'attività editoriale, anzi a un certo punto lei parla di vera e propria febbre del libro. Ecco, che cosa spinse Venezia a questa specializzazione editoriale? Beh, nella prima metà del Cinquecento c'erano tre elementi che non si riscontravano in nessun'altra parte d'Europa. Cioè c'erano i capitali, un mucchio di quattrini, e impiantare una tipografia costava tantissimo perché costavano molto i punzoni e i metalli per fare i caratteri. C'erano le linee commerciali, i libri viaggiavano nelle galee della Serenissima assieme alle spezie e agli altri beni che Venezia commerciava in giro per l'Europa. E soprattutto c'era libertà. L'Inquisizione romana non riesce a mettere a piede a Venezia prima della metà del Cinquecento. Il primo rogo di Talmud è del 1553. Prima di quella data c'era una libertà di stampa quasi assoluta e per cui tutti venivano da tutta Europa a stampare libri a Venezia. Approfondendo questo aspetto, quello della libertà, lei sottolinea come la stampa a Venezia sia nata sotto un'egida laica, perché scrive: in Germania la stampa nasce sotto l'egida della Chiesa Cattolica, invece a Venezia è finanziata dai patrizi dei circoli umanistici, il potere ecclesiastico non riesce a esercitare la propria influenza, quindi c'era anche una classe dirigente però colta e avvertita. Assolutamente sì, il primo mercato per i libri veneziani era il mercato interno. I patrizi erano finanziatori e consumatori di libri, non erano gli stampatori, non erano loro in prima persona a impegnarsi nelle tipografie, mettevano i capitali. La storia della tipografia veneziana è una storia di immigrazione. Tutti gli stampatori e gli operatori, diciamo gli operai delle tipografie, erano tutti immigrati, prima dalla Germania, ed era un po' il mondo alla rovescia, i tedeschi che immigravano in Italia, e poi dal resto della penisola. Anche il grande Manuzio non era di Venezia. No, era un romano, e pensiamo a voi, infatti si firmava Aldo Romano, e pensate a uno slogan di un movimento politico che diceva fuori i romani del Veneto, no? Lei lo definisce il Michelangelo dei libri, Manuzio. Manuzio ha inventato tutto, ha fatto tutto, ha pubblicato il più bel libro del Rinascimento, il Polifilo, ha importato nella lingua italiana il punto e virgola, l'accento e l'apostrofo, ha inventato il tascabile, ha inventato il corsivo. I caratteri con cui noi oggi leggiamo i libri, cioè che normalmente sono il Times, derivano direttamente dal tondo di Aldo. Se noi prendiamo un libro in mano, un tascabile, lo guardiamo, quasi tutto quello che c'è in quel libro ha 500 anni. Poi ci sono le altre grandi figure degli intellettuali, per esempio si diffonde su Aretino, che è un personaggio certamente affascinante, che è una grande biblioteca. Aretino era un personaggio fantastico, il flagello dei principi, è stato il primo autore personaggio della storia dell'editoria, il primo a capire che più che i propri libri bisogna vendere se stessi. E tra gli altri primati che ha Aretino è anche quello di aver pubblicato il primo libro pornografico della storia. Ecco, lei nel suo libro poi spiega che a un certo punto, ricorda che a un certo punto Venezia imbocca la via della decadenza, ma questo non significa decadenza dell'attività editoriale libraria. No, diciamo nel 600 c'è una decadenza abbastanza pronunciata. Anche se alcuni settori, per esempio quello del libro ebraico, a Venezia si stampavano molti libri in lingue straniere, quest'anno corre il 500° del primo libro armeno, per esempio, e l'editoria ebraica invece ha il periodo del suo massimo fulgore proprio nel 600. Nel 700 c'è una ripresa dell'attività editoriale, ma più orientata verso quella che noi oggi chiameremo stampa di informazione. Si stampano gazzette, si stampano giornali, la Gazzetta Urbana Veneta di Gozzi è uno dei primi esempi di giornale modernamente inteso. Il primo direttore donna di giornale in Italia è una veneziana, Elisabetta Caminer, direttore dell'Europa Letteraria alla fine del Settecento. Poi c'è il fenomeno Remondini che sta fuori da Venezia, ma nello Stato Veneto, a Bassano del Grappa. A un certo punto i Remondini hanno la tipografia più grande d'Europa e esportano santini, soldatini, giochi dell'oca in tutto il mondo. Si sono ritrovate stampe di Remondini in America come fino in Siberia. A proposito di letteratura straniera, racconta nel suo libro la possibilità di fare ancora delle scoperte fantastiche nelle biblioteche di Venezia. Per esempio parla di questo Corano perduto custodito da un fraticello francescano che non voleva privarsi del suo tesoro. Sì, più che altro non sapeva, non aveva idea di cosa avesse in mano. Il Corano a Venezia, dicevo appunto che si sono stampati in molte lingue, straniere, compreso il primo Corano in arabo della storia, stampato nel 1538 da uno stampatore che si chiamava Alessandro De Paganini, che era pure lui un immigrato perché veniva dal lago di Garda, dalla sponda bresciana del lago di Garda, e questo Corano è stato perduto per 450 anni, se ne avevano notizie di letteratura ma materialmente nessuno l'aveva mai visto, finché una studiosa, una giovane dottoranda, è una milanese che insegna all'Università di Udine, si chiama Angela Nuovo, un po' per caso, un po' perché lei sapeva come si presentava questo Corano, lo ha ritrovato. Questo Corano era regolarmente catalogato nella biblioteca dei francescani di San Michele in Isola, per chi conosce Venezia sarebbe il cimitero, ed era regolarmente registrato, ma non sapevano cosa fosse. Questa signora lo ha chiesto, lo ha guardato, sapeva che questo libro era appartenuto nel 500 a uno studioso di arabistica di Pavia che si chiamava Teseo degli Albonesi, nel libro c'era la firma di Teseo degli Albonesi, e lei ha detto è questo, e ad Angela Nuovo va il merito di aver ritrovato il Corano perduto, il primo Corano in arabo mai stampato al mondo. Un altro filone importante nella produzione editoriale di Venezia furono i libri scientifici. Ah, non c'è dubbio, anche il primo libro di geometria di Euclide è stato stampato a Venezia, e si sono stampati i libri di matematica, si sono stampati i libri di medicina, i testi fondamentali di medicina, a parte uno, il Vesalio, che tutti gli studiosi di storia della medicina conoscono, che è stato stampato in Svizzera, ma tutti i più importanti testi di medicina hanno le loro prime, se non la prima, le loro primissime edizioni a Venezia. Bene, grazie ad Alessandro Marzomagno, autore dell'Alba dei Libri. Buona domenica. E vi segnalo adesso il libro di un libraio, anzi il diario semiserio, come recita il sottotitolo, di un libraio che si intitola Un altro bestseller e siamo rovinati. L'autore è Marino Buzzi, pubblicato da Mursi, a 124 pagine, 9,90 euro. Questo libro scritto dall'altra parte del bancone, con una cronaca ironica ma spesso anche molto arrabbiata con i clienti, o almeno con alcuni clienti di una libreria, per esempio quelli che si ostinano a chiamare commesso il libraio, o quelli che entrano per chiedere i fratelli Kalashnikov o la storia di una calimera. Un altro libro dedicato ad appassionati dei libri è 50 cose che puoi fare con un libro oggi che non si legge più. L'autore è Bruce McCall, che è un umorista americano molto famoso. Il libro è tradotto per l'Ancora del Mediterraneo da Taddeo Roccasalda. A 112 pagine costa 10 euro. La situazione americana non è meno grave di quella che lamentiamo in Italia, dove appunto ci si lamenta che si legge sempre meno. E scrive infatti l'autore che negli Stati Uniti ben oltre la metà della popolazione americana non ha letto neanche un libro nell'arco di un anno, e quindi cresce di giorno in giorno la tendenza verso una società senza libri, speriamo non però verso una società senza trasmissioni sui libri. Insomma, bisogna abituarsi a farli fuori, dice l'autore. Abbiamo raccolto tutti enormi pili di libri, che cosa possiamo fare di questi libri inutili? E qui troviamo 50 consigli assurdi e surreali, tutti graziosamente illustrati, che rappresentano il miglior viatico per la salute del libro. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro dello scrittore cinese Zhang Xianhui, che è uno dei più importanti autori di quel grande paese. Il libro si intitola La donna di Shanghai, voci dei sopravvissuti a un gulag cinese, pubblicato da Mattea, tradotto da Wen Huang, con Anna Carbone, 314 pagine, 16 euro. Lo scrittore è stato recluso per 16 anni in un collettivo agricolo a regime militare e racconta in questo libro l'esperienza dei Laogai, cioè dei gulag cinesi, spiegando l'esigenza di tenere viva la memoria di questa pagina terribile della storia del suo paese. L'altro libro invece è un noir di Enrico Pandiani, si intitola Pessime scuse per un massacro, è pubblicato da Rizzoli, 380 pagine, 16 euro, ed è una nuova puntata in un filone al quale ha dato vita questo scrittore, il filone des Italiens, cioè della squadra della polizia di Parigi, formata appunto da italiani di origine che questa volta sono alle prese con un inquietante omicidio politico. E infine vi segnalo un libro i cui proventi vanno a finanziare la fondazione Coltiviamo i Sogni, che è stata fondata da Raoul Bova e dalla moglie e che attualmente è impegnata da Haiti. Chi vuole quindi contribuire a questa fondazione può acquistare il libro bianco di una autrice esordiente, Daniela Tozzi, 240 pagine, 17 euro. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Queste sono forse le note più famose di Mahler e l'adagietto della Quinta Sinfonia, e ci introducono a una poderosa biografia del grande musicista. Si chiama appunto Gustav Mahler, il titolo, e l'autore è Henri-Louis de Lagrange, pubblicato da EDT, 478 pagine, 29 euro, tradotto da Maurizio Disoteo. Un testo definitivo quasi per i grandi appassionati di Mahler, perché naturalmente in questo libro troviamo la vita e la carriera, è un'elencazione precisa di tutte le opere del grande compositore austriaco, una vita illustrata anche da varie immagini. L'opera naturalmente finisce per costituire un grande affresco anche sull'Europa musicale a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, un'Europa musicale di cui Mahler certamente fu uno dei protagonisti. E viene anche esaminata nel libro tutta la documentazione su Mahler, a partire dalle famose contestate memorie della moglie Alma, una figura appunto molto discussa anche per le notevoli deformazioni con cui ella avrebbe costellato la propria ricostruzione dei fatti e della vita di suo marito. Sentiamo dal libro alcune righe assai poco lusinghiere per la verità per l'ambiente italiano, che Mahler incrociò nel 1910, pochi mesi della scomparsa, quando tenne una serie di concerti a Roma. Mahler, che ha accettato di fermarsi a Roma prima di tornare a Vienna, si prepara un ciclo di 3 concerti tra la fine di aprile e l'inizio di maggio all'Augusteo, la nuova sala da 3.500 posti costruita sul mausoleo dell'imperatore Augusto. Ritrova nella capitale italiana Mengelberg, che secondo Alma gli consiglia di essere molto severo con l'orchestra messa a sua disposizione. Non è chiaro se a causa della sua rudezza o per il livello molto fiacco dell'organico, privo della maggior parte dei suoi titolari in tournée nell'America del Sud. Tuttavia Mahler, dopo 2 prove, abbandona l'idea di dirigere la sua prima sinfonia, cambia il programma del primo concerto e annulla l'ultimo dei 3. L'indomani gli articoli della stampa romana sono elogiativi, ma altamente insignificanti. Il Corriere d'Italia menziona gli applausi calorosi e sinceri che hanno salutato i pezzi wagneriani. Il Giornale d'Italia osserva che Mahler sa condurre l'orchestra a un'unità ammirevole e il Popolo Romano parla di raccoglimento religioso del pubblico. Ma nelle lettere al suo impresario, a Diepenbrock e ad Alfredo Casella, Mahler parla senza moderazione di un'orchestra penosa e indolente, di un porcile e di un insieme abominevole con il quale il concerto è stato un purgatorio. Nel libro su Mahler si accenna a un episodio molto importante della sua vita, un incontro che fu determinante, quello che Mahler ebbe il 25 agosto del 1910 con Freud al mare. Nel corso di questo incontro Freud avrebbe visitato, per così dire, il compositore e, scrive l'autore del libro, gli fece prendere coscienza del fatto che egli aveva cercato inconsciamente di ritrovare in Alma, la moglie appunto, la donna sofferente e afflitta che era stata sua madre, mentre Alma da parte sua aveva trovato in lui un uomo la cui età le ricordava quella del padre. E proprio con questo incontro tra Mahler e Freud si apre il volume di Giovanni Judica, che è un giurista appassionato di musica, intitolato Mahler sul lettino di Freud e altre storie, pubblicato dalla Vita Felice, 126 pagine, 12 euro. Judica convinse il suo paziente che era affetto dal cosiddetto complesso della Vergine Maria, ma Mahler aggiunge, nonostante le profondità di pensiero del suo medico curante, capì che forse era meglio lasciar perdere Freud e le sue dotte lucubrazioni e cercare altre strade. Cominciò allora a tentare di recuperare il rapporto con la moglie con il collaudato strumento del dialogo e della tenerezza. E poi troviamo qui tante altre storie brevi che hanno per protagonista grandi musicisti: Bach, Scarlatti, Mozart, Monteverdi, Wagner, insomma una serie di tra le quali una che racconta le condizioni di lavoro in cui maturarono alcuni dei supremi capolavori della nostra civiltà, condizioni di lavoro quasi schiavistiche, in particolare quella di Bach, di cui Judica ci racconta un episodio poco noto che adesso vi propongo. Pochi ricordano o sanno che il grande Johann Sebastian Bach subì la vergogna, l'indecente e gravissima umiliazione di essere tradotto in carcere e di restarvi imprigionato per un mese. Quale fu il reato? Quale delitto fu commesso dal pacifico, scrupoloso, religiosissimo Kapellmeister? Bach si era dimesso dal suo ufficio presso la corte di Weimar senza aver ottenuto il previo consenso del principe. Tutto qui. Due gendarmi, di primo mattino, bussarono alla sua porta e gli dissero bruscamente, senza usare troppo buone maniere, davanti alla moglie e ai suoi numerosi figli: «Herr Bach, Sie sind verhaftet!» «Signor Bach, siete in arresto!» E di Judica da Sellerio era uscito da qualche mese Il cappello dell'ammiraglio, 216 pagine, 16 euro, un romanzo autobiografico che è una pagina garbata di un pezzo dell'Italia borghese. E questo è un altro grande musicista, l'avrete riconosciuto, Igor Stravinsky, questo è Pulcinella Suite, che ci viene presentato da un altro grande musicologo. Il libro si intitola Compagno Stravinsky, l'autore è Massimo Mila, edizione del Rizzoli, 260 pagine, 12,90 euro. Il libro è del 1983 e raccoglie vari scritti su Stravinsky. Il titolo naturalmente è ironico, tutto si poteva dire di Stravinsky tranne che fosse un comunista. Come spiega infatti Piero Gelli nella sua prefazione, questo termine, il termine compagno, è usato da Mila in un senso proprio. Mila, scrive Gelli, sa bene che il sintagma compagno Stravinsky è uno sberleffo per tutti coloro che reputano il compositore uno snob reazionario, per tanti intellettuali gauchiste, per tutti quei musicien ancorati all'ordine della nuova musica timbrata d'orno. Compagno significa anche colui con cui si abbia un legame di solidarietà, d'intesa, di vita, una guida o anche l'amico con cui percorrere insieme l'esistenza. Stravinsky, conclude Gelli, è l'uomo davvero contemporaneo che vive nel presente, nella verità dell'oggi. E infatti lo stesso Mila scrive nel suo libro che Stravinsky con la sua musica fu un compagno di strada per l'uomo moderno, un fratello, un maestro di vita. E aggiunge nella conclusione del suo libro che Stravinsky vive nel suo tempo e non lo tradisce né con la nostalgia né con la speranza. Il suo orologio non avanza né ritarda neanche di un minuto su quello della storia. La sua arte e la sua vita sono hic e nunc. Per questo gli vogliono bene quelli che il loro tempo accettano, perché ci vogliono operare dentro con buona volontà. E a questo punto... Il confettino. Vi presento di Manuela Monari La corsa della lumaca, illustrato da Philippe Giordano, pubblicato da Zoolibri, 13,50 euro, 32 pagine. Beh, anche le lumache possono correre e sorprendere naturalmente tutti i loro amici. Questa è la lezione di questo libro.